come tu non le senti, forse sei troppo impegnato con i tuoi eventi. Se vuoi fermarti un attimo ad ascoltare attentamente, ti accorgerai che stanno manipolando la tua mente. Dietro le sfilate di moda o ai nuovi cantanti, dietro notizie che ti spaccano come importanti. Ci sono verità che non devono venire alla luce, forse da eseguire per il nuovo duce. Ma io sento le voci di quello che voglio eliminare, tu non ci credi, vuoi ridicolizzare. Sento le voci dicono che non ci sarà un futuro, ma tu pensi alla partita e ti senti sicuro. Ma come anche questa volta non hai sentito niente, parlavano di jobs act e di diventato crescente, della gioia dell'incertezza, della flessibilità, di vitalizi, privilegi e legalità. Ma dietro i facci di nuovi trapper omologati, dietro le offerte speciali dei supermercati, sono schiavi da nascondere in condizioni disumane, i rischi da negare persone malate o anziane. Ma io sento le voci di quelli che vogliono sfruttare, prima o poi mi riusciranno a incatenare. Sento le voci progettate di criticare la gente, al contratto all'anzone ti credi più intelligente. Sento le voci dicono che mi vogliono sfruttare, prima o poi mi riusciranno a incatenare. Sento le voci progettate di criticare la gente, al contratto all'anzone ti credi intelligente. Come? Non sai che pure continuano a non parlare, stanno organizzando la nuova guerra mondiale, giocano sulle paure, spostano l'attenzione su ciò che conviene loro, che fanno odiare, combattere che veramente fuori dal cuore. Dietro discorsi superficiali di ignoranti, dietro droghe alcol e tranquillanti, ci sono appiegati a seguire con il sorriso, sacrifici da fare per guadagnare il paradiso. Ma io sento le voci, il mio futuro è stabilito, se non sarò utile verrò sostituito. Dalle malattie si potrà guarire solo se utilizzerà il farmaco con l'unico marchio ufficiale che c'è. Ma come non senti o non ci fai caso, allora è servito farti girare su col naso. Ma se trovi ancora un attimo di lucidità, ti accorgerai che non esiste più umanità e libertà. Dietro tutti gli avvertiti, le feste forzate, dietro strani termini, le tenure parole inventate, c'è preciso progetto di sfruttare le nostre energie, c'è bisogno di metterci con promesse e bugie. Ma io sento le voci e mi voglio ribellare contro chi tu servi un ringraziare. Sento le voci e mi vorrei fermare, ma anche tu la prossima volta mi vorrai votare. Le voci ormai inutile parlare, sei diventato uno di loro e mi vuoi annientare. Sento le voci, non so dove nascondere la testa dittatura, e io ancora mi fai tanta paura.